24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. Beh, io gli avevo detto all'Anghela, ma dove vai con quei fianchi? C'è una culona insciabile. Vabbè, Maurizio Crozza, la culona insciabile, indovinate chi è? E anche l'imitazione, indovinate quale fosse. Eccoci qua, questo è 24 mattino e sono le 6 e 30 minuti in questo istante. Siamo pronti, è ripartito lo schema Allegri più forte che mai, eh? Dai, dai, forza, cari italiani, forza, dai! E poi quando cambieremo l'allenatore, che si fa? Non lo so, vabbè, lo schema Allegri sarà sempre valido. Allora, saluto Miriam Lucchetti in redazione, così come saluto il nostro alpino Peter Bescapè in regia. La squadra è sempre questa, anno nuovo, vita vecchia, anno nuovo, squadra vecchia, 24 mattino vecchio, ma sempre nuovo. E allora apriamo il Parlamento. Chi offre il caffè? Il caffè volentieri a tutti quanti. Parlamento. Ebbene sì, sempre Nicole Minetti. Dovete... Brutto cretino d'un Milan. Ecco, proprio niente cambia, eh? Vabbè. Tanto da tornare storto come il dottor Auto. Allora, voglio salutare un buon 2014 la nostra Paola Saluzzi. Ma bentornati. Ma anche te. Buon anno. Ma anche te. Come va? Molto bene. Tutto bene? Molto bene. Carichi. Sei andata a sciare? Ma quando mai? No, non lo so. Meglio di no. Meglio di no, perché l'effetto sarebbe quello di Pippo sugli sci per gli amanti della Disney. Quindi, insomma, non sono mai stata questo. Non è una sciatrice. Non ho mai avuto il sacro fuoco delle piste. Una volta che ho provato a pattinare su ghiaccio me lo ricordo ancora. Se lo ricordo anche la pista, perché c'è stato un tonfo, esatto. Così che ha messo a dura prova il ghiaccio. Stile anche la Merkel, no? Vabbè, stile anche la Merkel, no? Più o meno. La verità è che quando uno non è personaggio nato in montagna, è meglio che se ne stia al mare. Meglio che uno se ne stia un pochino in posti un po' più caldi, però vabbè. Allora, ha ripreso anche Sky TG24 pomeriggio con la nostra Paola Saluzzi, e voglio salutare anche Luca Dini, il direttore di Vanity Fair. Buongiorno Luca. Buongiorno, buon 2014 a tutti. Sci? Niente, no. Poco. Vabbè, stile Merkel. Stile Merkel. Ragazzi, che sciatore che abbiamo qua. Va bene. Allora, io voglio subito... la politica è di una noia mortale, ecco. Mortale, di più che mortale. Molto, molto di più. È tornato quel chiacchiericcio fastidiosissimo della politica, della legge elettorale. Io non invidio Paola Saluzzi. Me la vedo già alla mattina in riunione di redazione. Di che dobbiamo parlare? Della legge elettorale? Ma che palle! Mi viene sempre in mente, guarda, non te lo rubo come... Sì. Oramai è un tuo copyright, la settimana decisiva. Sì. Quando dirò settimana decisiva ti assegnerò il copyright. Ma voi, ieri ho letto, ma non era uno scherzo, due articoli, uno del Sole 24 Ore e uno del Corriere della Sera, iniziavano così: è la settimana cruciale per la riforma elettorale. Ma cruciale. Io quando l'ho letto volevo ribaltarmi sulla sedia e dire no, ma come? Ma siamo alla 36esima di questa legislatura. Però a decisivo. Questo punto accadrà qualcosa. Io che davo già la legge elettorale fatta per il 30 novembre scorso, a questo punto accadrà qualcosa. Accadrà qualcosa. La cosa che accadrà secondo i giornali, ma ne parleremo poi, no, e non mi interessa anche tanto, è che Renzi vedrà Berlusconi. Così raccontano i giornali. Renzi vedrà Berlusconi in settimana. Non è una novità, per la verità, anche questa. Qui che è abbastanza normale, diciamolo pure, no? Esatto. Due leader che si punto. Esatto, però vorrei buttarvi sulle cose un po', secondo me, più concrete e popolari. Per esempio, questo dibattito che si è animato ieri sulla legalizzazione delle droghe leggere. Allora, ci ha pensato l'assessore regionale dell'agricoltura della Lega, Fava, in Lombardia, che ha detto anche se ci hanno, caro Lucadini, ha detto così, oggi dice a Repubblica, se lo hanno fatto anche quei bacchettoni degli americani in alcuni stati, perché non dovremmo farlo anche noi, legalizzare le droghe leggere? Intanto la vostra posizione, direttore, che ne pensi? Ma oddio, è un tema delicato, però devo dire che sono abbastanza d'accordo, non solo con i bacchettoni degli americani, praticamente tutto il mondo, quindi quando tutto il mondo fa una cosa e tu ne fai un'altra, ti cominci a chiedere, ma forse sto sbagliando io. Forse stai sbagliando tu. Tu Palasaluzzi, che ne pensi? La mia posizione, io dico personalmente, sono favorevole. Poi c'è sempre l'idea, come scrive bene oggi Filippo Facci, che se uno dice favorevole perché si vuol favorire il consumo, ma no, io sono contro le droghe, non ho mai fumato, non me ne frega niente, non ho questa attrazione, non è che voglio spingere il mercato, ma sono a favore di una legge, è un concetto, come dire, filosofico, culturale, oltre che... Il problema è la gestione culturale successiva della liberalizzazione. Sì. Per me il problema è solo questo, cioè non essere contrari a quello che il resto del mondo fa è una buona norma, chiaramente dipende dalle norme, nel senso se il resto del mondo decide che la pena di morte sia giusta e uno dice solo da noi, certo, non funziona, ecco, rimanere sulle proprie posizioni. No, la droga bene non fa, questo è bene che si sappia, insomma, poi è la gestione singola della libertà che permette che non faccia male, mm-hmm, o che non arrivi a fare male, ma il concetto è siamo pronti? Bisogna fare una prova, evidentemente. Io credo alle prove, credo al periodo. Una volta le macchine si dava il tempo di, no? Però quello che contesto, Paola, è che dire se uno dice a favore della liberalizzazione sembra che sia a favore della diffusione delle droghe. No, al contrario, no, sono assolutamente contro, sono per educare, sono per. Questo è il modo facile di mettere la targa addosso alla gente e chiudere le persone nei cassetti, no? Esatto, dice sei a favore, sei un cannaiolo, vuoi fare. No, non è così, sono contro la diffusione delle droghe, anzi, in alcuni paesi lo hanno fatto proprio per stroncare il narcotraffico, per esempio. Il narcotraffico, no? Chiaramente. Il problema è, ribadiamo, capire come poi si gestisca la libertà. Il problema è sempre quello di saper gestire la libertà. Allora, saper gestire la libertà significa che stronchi il narcotraffico o che regali qualcosa a qualcuno e questo qualcuno ne fa l'uso del gioco, che ne fa Pinocchio nel paese dei balocchi? Questo non lo so. So che mi sembra di capire che, caro Lucadini, chiedo anche a te, il discorso in Italia viene sempre fatto così, per fiammate, no? Per vampate. Adesso c'è un politico che dice questa cosa, subito un senatore, il senatore Manconi. Il senatore Manconi ha proposto un disegno di legge, però poi come finirà, caro Luca? Se ne parlerà per 3 giorni e poi un po'. E poi non ne parleremo più. In realtà è una questione anche culturale, perché ovviamente, cioè, se uno guarda per esempio i danni che fa l'alcol, cioè è la stessa definizione che fa un po' acqua, insomma. È difficile stabilire che cosa è droga e cosa no, ed è una questione eminentemente culturale. E bravo direttore, cioè vado al supermercato, riempio il carrello, tutto il tipo d'alcol, compreso quello proprio per far, sì, per pulire i bagni, sì, possibile, e ho l'alcol che è la droga, assolutamente la droga, evidentemente legalizzata, perché esiste, è chiaro, e nessuno pensa di colpevolizzare chi produce vino piuttosto che altro, sì. È la gestione, ma è chiaro, è la gestione, vuol dire l'educazione delle scuole, l'educazione giovani, l'approccio, quello è a portata di mano, è a portata di mano quanto ne vuoi, cioè, che non fate, vi occupate, vedi che vi occupate di questo, io non lo sapevo, però vedi, finalmente una cosa concreta, ma come non ti occupi del modello spagnolo? Del Mattarellum, il Kangurum, come il Kangurum, che fine ha fatto il Kangurum? Per favore, speriamo sia caduto da qualche parte con buona parte dei canguri, ma qualcosa di italiano, non lo so. Adesso arriva. Abbiamo avuto Leonardo, Michelangelo, certo, dobbiamo sempre andare a cercare da qualche parte. E invece arriva adesso il Jobs Act. Jobs Act. Quello fa molto Obama, i Jobs Act. Jobs Act. No, ti occuperai di questo, vedi, Paola, oggi pomeriggio. Assolutamente. questo, ma anche di liberalizzazione. Certo. Di questo anche ci occupiamo oggi, temi tutti sul tavolo, no, è chiaro. Comunque, senza dimenticare mai che cosa? I problemi reali. È chiaro. No? È chiaro. Da bar e le mani sul volante. Comunque, vogliamo. Ma smetti le mani sul volante. Vogliamo sentirlo allora, questo assessore Fava, assessore della Lombardia. Magari ce l'hai ospite oggi, Paola Saluzzi. Vedremo. No, sto bruciando tutte le robe. No. Sentiamolo, Fava, sulla legge Fini-Giovanardi. Nei prossimi giorni il Parlamento dovrà normare, legiferare nell'ambito di quello che è il famoso decreto svuota carceri, sostanzialmente scegliendo se superare o meno quello che io giudico essere una legge liberticida, che è la Fini-Giovanardi. Credo che a quel punto noi dovremo prendere una posizione. Vabbè, insomma, intanto ha creato un bello sconquasso. Giovanardi ci sarà. Ah, ecco, Giovanardi ci sarà. Vabbè. Allora, e questo è un dibattito che c'è molto diffuso sui giornali. E subito è partito il disegno di legge, Manconi l'ha proposto, Vendola si è detta a favore, e vabbè. Le cose concrete. Allora, vi chiedo quest'altra cosa, anche se andiamo in Francia. Sapete che in Francia c'è questo che viene definito un comico, in realtà non è ancora, questo Dieudonné. Tu lo conoscevi, Lucadini? Ne avevi mai sentito parlare? Sì, purtroppo. Mi rifiuto di considerarlo un comico. No, infatti adesso da comico pare sia definito ormai un fascio, come dire, fascio nazi, antisemita, insomma, che va sul palco e fa. Però il tema lanciato in Francia e che è oggi anche ben presente sui giornali, questo comico o comunque questo istigatore di folle che fa degli spettacoli antisemiti prendendo di mira gli ebrei, ora è stato censurato, cioè non potrà più andare in scena. E qui si apre il solito dibattito, caro Luca. È giusto o no limitare a tal punto la libertà di espressione di uno che può dire, ahimè, può dire anche ciò che vuole e fare delle battute durissime? Il tema è sempre quello, l'olocausto, le camere a gas, insomma, lo sfondo è quello. Possiamo immaginare delle sue battute. Che fare? Bisogna censurarlo? Secondo me sì, nel senso che quando si nega una realtà storica e la si nega per sostanzialmente per fare del male, per seguire un disegno di persecuzione o di discriminazione, sì, è giusto. Cioè sarebbe come, ma direi lo stesso se negasse che è esistita la schiavitù. Però sono cose troppo gravi. No, perché sai che il dibattito in Italia c'è anche quello di rendere addirittura di rendere anche con una legge penalmente punibile chi nega, per esempio, l'olocausto o chi nega gli olocausti che ci sono stati nella storia. Tu sei d'accordo, sei favorevole. Sì. Però questa ha suscitato un grande dibattito. Tu, Paola Saluzzi, come te la vedi, insomma, questo Dieudonné, che certamente nessuno può spendere una parola a favore di quello che... No, ma io sono ancora più democratica. Vincitori e vinti, per grazia di Dio avete perso? Stai zitto, perché già l'idea solo che tu sia nazi, prima ancora che tu dica le battute, vuol dire che non ci puoi sta. Cioè devi lavorare in maniera catacombale se vuoi lavorare. Prenditi i 40 topi che ti seguono, topi nefasti che portano la peste, e portateli sottoterra, dove ti ascolteranno, ma a livelli d'aria, di cielo, di sole, di mare, di pioggia, non ci devi stare. Perché sei un bastardo di prima categoria, perché mi fai schifo, perché negare appartiene alla mentalità distorta nella quale sei cresciuto, per tua disgrazia, evidentemente. Non ci puoi stare. Cioè, proprio devi stare dall'altra parte. Però qui le bandiere per le quali credi hanno filato in Europa, poggiate per terra, le hanno fatte strisciare per terra, perché la bandiera ha un valore. Se continua a pensarla così, chi brucia le bandiere dei paesi democratici non ci può stare. Ma le bandiere per le quali tu farli, cioè quelle con la croce uncinata, hanno sfilato per terra e sono morte 50 milioni di persone. Sì. Brutto deficiente. Sai però cos'è, Paola, e io capisco il tuo Paola. Impeto nel, che qui è intervenuto François Hollande, è intervenuto il ministro dell'interno, cioè ma è intervenuto con importanza gli si dà questi, interviene il ministro dell'interno, ma intervenite. Ma sai perché? Perché ha molto successo, ha molto seguito, ha molto. Questo è il problema. Ha molto successo? Allora andiamo a parlare come suffragette fuori dai teatri dove ignobilmente un soggetto del genere si propone e cerchiamo di andare a parlare con la gente, a far capire, ma capiamo, ma perché vai a vedere questo pezzo di avanzo che neanche serve? Brava, infatti questa è la domanda, cioè oggi il Foglio, poi lo leggerò in rassegna stampa, un ottimo pezzo di Alessandro Giuli su questo, e dice, caro Lucadini, il problema è diventato un grave problema, quando a queste battute di Dieudonné, questa persona che poi ha iniziato a diventare amico dei negazionisti, è andato a Teheran, dileggia gli ebrei in ogni battuta, e fa ridere molte persone in Francia, a meno non so adesso quanto seguito abbia, ma ne ha. Certo, anche Hitler faceva ridere alcuni, e Osama Bin Laden ha fatto ridere qualcuno. A me no, ritengo che chi ride vada punito. Portateli in massa ad Auschwitz questo pubblico, ma portateli lì e lasciateli chiusi una notte con una guida che spieghi esattamente che cosa succedeva, perché forse è molta gente che non sa, non ha visto, non ha capito, perché partiamo dal presupposto che la gente sia profondamente deficiente, nel senso di mancante di un pezzo, deficiente, gli manca un pezzo, ok? Questo sì, tu li rieducheresti così, portandoli al pubblico di Dieudonné. Un loco, così ti faccio vedere. Comunque io non lo conoscevo, è diventato famoso ovviamente negli ultimi tempi per questa censura. Non c'è il rischio, caro Luca, di renderlo ancora più famoso? Cioè questo è sempre il rischio che si pone in questi casi, no? Cioè intanto gli si è dato una platea anche sulla stampa mondiale con questa censura. No, secondo me no, bisogna, cioè il pubblico può capire se si dà l'esempio, cioè bisogna essere molto chiari su certe cose, non si transige, secondo me. Non si transige. Comunque questo Dieudonné non potrà più, per decreto insomma dei massimi vertici francesi, esibirsi in pubblico, visto che il suo era uno spettacolo fortemente antisemita. Allora andiamo a sentire le informazioni sul traffico e poi rientriamo, siamo con Paola Saluzzi, Lucadini e le altre notizie che trovate fin da subito sui giornali. Siamo qui 24 mattino. Ciao Alessandro, sono un cittadino romano, pensionato. Ho sentito in televisione che vogliono aumentare l'addizionale IRPEF ai romani. Ma questi qui ci hanno la faccia proprio con il culo, con tutti i soldi che si sono rubati, Fiorito e Company? Premetto che non ho votato i grillini, però devo anche ammettere, fargli complimenti, che sul decreto mille proroghe hanno veramente fatto il loro lavoro. Il figlio di Veltroni sta facendo pirletta. Sai chi è il figlio di Veltroni? Renzi. Come quando Veltroni ha fatto cadere Prodi perché era convinto di vincere. Adesso pirletta, l'Edrea fa la fin di Veltroni. Così agevole Berlusconi e Grillo. Ma visto che Monti e la Fornero hanno fatto solo delle grandissime cavolate, perché queste cavolate adesso rimangono e non vengono riazzerate? E perché quello che ha fatto questa Fornero, un'opera di killeraggio, è accettato nonostante sia stato riconosciuto che non ha portato nessun beneficio all'Italia, ma anzi ha ucciso l'economia? Adesso che Berlusconi è fuori dal Senato ed è diventato un semplice cittadino, le auto e gli uomini della sua scorta li paga lui o sono ancora a nostro carico? E poi perché fuori dalla sua villa di Arcore ci sono sempre i carabinieri che paghiamo noi? Allora costui che dovrebbe stare in galera è invece protetto da tutti gli uomini dello Stato. Io lascio a lei le conclusioni e ai 5 Stelle voglio che facciano un'interrogazione in Parlamento su sta storia. Grazie. Cari italiani, auguri, un po' di pazienza, buon anno, ce la faremo. eccoci qua, eccoci qua. Cara Paola Saluzzi, ovviamente ho l'IRPEF, come ha detto l'ascoltatore questa, di Roma. Questa poi è una storia tutta quanta giustamente da vedere e da studiare. Io vorrei tanto che a Roma, oltre ad aumentare l'IRPEF, aumentassero anche la cura della città, sì, sì. No? Aumentano i debiti. Non... Ieri ci siamo occupati, cos'è, 1,2 miliardi. La domanda era: ma deve fallire Roma? Viste, dai? Sì, ho seguito con la massima attenzione, sì, e devo dire che molta gente ha giustamente detto: certo, poi c'è un sindaco che è arrivato ora e ha ereditato. No, per carità. Però il problema è sempre quello dell'eredità. Certamente non è questa, non è sul sindaco che uno vada a lanciarsi, ma è sempre quello dell'eredità di qualcuno, sì, che è successo perché nessuno si era occupato di qualcun altro. E tu poi vivi in un posto dove i disagi ci sono, e meno male che siamo la capitale, pensa fossimo l'avamposto del nulla, non lo so. Certo, in intanto saremo, mentre la politica si interroga sulla legge elettorale, Mattarellum, spagnolo, ma ce l'abbiamo Benigni, lo recuperiamo Mattarello spagnolo, dobbiamo rimetterlo, lo storico Benigni, bisogna iniziare tutti i giorni la puntata con quello spataffio, questo ci vuole. Noi vogliamo elettori, siamo per la riforma, uninominale, secca, l'inglese, con doppio turno, la francese e il ballottaggio, e lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera, per il presidenzialismo e il cancellierato alla tedesca, il problema alla Sartori, e vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese, i bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina, e noi vogliamo, elettori, il bagno alla turca! E questa è la politica, è il sunto perfetto della politica in questo momento, ed era credo di 10-15 anni fa, di Benigni. Mentre tutto questo si interroga, succede che ai professori tolgono 180 euro di aumento di scatto dell'anno scorso, che è stato giudicato, cioè è stato bloccato, il blocco dello scatto dell'anno scorso, e quindi vi è stato dato, cari professori, a 80.000, e mo lo dovete restituire, ecco, caro Lucadini, restitui. Gente che guadagna 1.380-1.400 euro, aveva questi, no, 180 euro di scatto, restituire. Il Ministero dell'Economia ha detto: è un atto dovuto, capisci? Dovuto. Pesante. Io rimango della mia idea: la vera droga italiana è l'evasione. Se tutti pagassero si pagherebbe molto di meno, chiunque dica il contrario ci prende tutti in giro. Comunque è un atto dovuto, questo è, cara Paola, è stato bloccato e quindi bisogna restituirlo. E poi... Ci sarà ancora da dire su questa storia? Sì, no, è chiaro, secondo me finirà così. Anche secondo me, il ministro Carrozza ha già detto no, Renzi si è ribellato, insomma, vediamo. E poi oggi decidono la Tasi, cioè il dibattito, e ride. No, per carità. Il Ministero dell'Economia vuol mettere il 3 per 1000 come tetto, i comuni il 3,5 per 1000 massimo, cioè si decide l'entità della famosa tassa che incorpora due, non si sa. Mi permette di dire, purché si decida, sì. Sarebbe questa una notizia, purché si decida, chissà come si deciderà. Vabbè, prima di dirvi che svelarvi cosa c'è in copertina di Vanity Fair. Dopo Peppa Pig e la copertina tutta d'oro, ragazzi, quel numero porta fortuna. Io ero all'estero. Cioè la maledizione a Lucadini, che ero all'estero, non potevo vedere la maledizione, cioè la copertina su Peppa Pig quando non... Comunque, ecco, era un velato messaggio. Però, siccome un brunetta al giorno non si nega mai, vi faccio sentire ieri brunetta, così mettiamo di buon umore. Ma anche no, ecco, vedi, invece no, brunetta ieri a radio anch'io, sentite. Ora mi dica quanto è lungo ancora questo tunnel, secondo lei? Ma questa è la politica, bambola, direbbe Humphrey Bogart. La politica vuol dire affrontare i problemi. Non diceva bellezza quella volta? Bambola, doll. Ho capito, quindi andiamo direttamente alla Lucadini, versione e corregge anche, tu che sei un purista, cosa diceva? Doll e quindi bambola o bellezza? Nessuno delle due in realtà, ma sicuramente non era Doll, ed era la stampa, era la stampa bellezza. Sì, sì, certo, certo, sì. Però è Doll, non Doll, era Doll. Doll, no, non era Doll, bellezza, capito Paola Saluzzi? Corregge anche, corregge i conduttori anche su, su dice, ma era bellezza, no, Doll. Va bene, andremo, adesso andremo tutti a controllare, chiaramente. Ma sì, ma chi è amante del vabbè, cinema... Me ne faccio, andrò a controllare anch'io, Adesso chiedo a Miriam Lucchetti, Miriam per favore controlla subito su Google, tanto fai Google. Sì, no, certo, bellezza è bellezza, sì, è la stampa, ma è il doll, bellezza, non lo so, forse era doll in inglese, abbiamo tradotto bellezza. Come avrà detto Humphrey Bogart? Chi lo sa? Sì, ma adesso vado a vedere pure io. Vabbè, comunque, la copertina di Vanity Fair, tanta roba, c'è Vittoria Puccini in copertina. Ma cosa fai? Ma che ti frega te? Non che mi frega, bravissima attrice, nonché bellissima. Ecco appunto, sicuramente bellissima attrice. E, però l'articolo che voglio segnalare e che io sicuramente leggerò con maggiore attenzione è anche voi, caro Luca, insomma vi concentrate su questo che è uno degli scandali italiani, la cosiddetta terra dei fuochi, di cui si parla sempre troppo poco. A me la cosa che ha sempre sconvolto di questa vicenda è come si sapesse da anni. Da decenni, perché c'erano le testimonianze di pentiti. E perché nessuno ha fatto mai niente? Perché appunto si preferisce parlare del doppio misto alla coreana oppure qualcos'altro. È il male italiano. Le cose che fanno paura si insabbiano. Si tende a nascondere. Cioè, la camorra... Non è soltanto una colpa della politica, è una colpa di noi tutti, perché no. Le cose che ci fanno paura... preferiamo dimenticarlo. No, certo, c'è voluto un prete, Don Maurizio Patriciello, diventato anche famoso, ci sono volute delle mobilitazioni civili di persone che molte mamme anche, no, che voi avete incontrato, avete raccontato per aprire uno spaccato su una storia che tutti avevano sotto gli occhi, ma che nessuno per anni ha portato alla luce. Questo è abbastanza incredibile. Comunque è il servizio che io vi segnalo, che c'è su Vanity Fair insieme a tante cose, mentre si è scoperto il mistero. Sapete cosa dice Humphrey Bogart? That's the price, va bene, baby! Baby, banalmente baby, baby, baby. Vedi, no, dolla, dovrei subito chiamare Brunetta. Dove subito chiamare Brunetta e correggerlo. No, non farlo, non farlo. Lo fai tu per noi, Luca, ti do il cellulare. Sì, probabile. Sì. Dai, ti mando poi il cellulare. Lo fai tu, Paola Saluzzi, la prima volta che lo inviti. Bentornato, Milan! Me lo dici la prima volta che lo inviti? Guardi Brunetta che non era doll. Baby, banale, baby, non doll, baby. Okay. Va bene, sempre grazie. Sempre però la parola di poche lettere. Sempre baby, sempre quattro lettere. Va bene, vi ringrazio. Ciao Paola Saluzzi, grazie mille. Ciao a Luca Dini, grazie per essere stati qui. È momento di Giornale Radio. Volete dire la vostra? 02 4652 4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02 4652 4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 Mattino. L'Italia si desta. E allora, siamo qui alle 7:18 minuti. Cari italiani, vi siete ripresi? Avete smaltito tutte le ferie? Tutto come prima, il tran tran quotidiano. Evviva, evviva! Allora, siamo qui a leggere i giornali. Vi ricordo che oggi parleremo di quella che è partita come decisione da una decisione del TAR della Lombardia di bocciare un piano regolatore di una città, la città di Brescia, perché non è prevista la realizzazione di uno spazio per la moschea, perché, o meglio, è prevista la realizzazione solo di spazi per il culto cattolico. E allora si è riaperto il dibattito. Non è il primo caso di piani regolatori di città bocciati perché non si prevede la possibilità di anche realizzare luoghi di culto per altre religioni. E ovviamente è ripartito il dibattito: no alla moschea, sì alla moschea.

eredità, un tesoro in eredità ai poveri, il paese litiga, nessuno incassa. Queste le ultime volontà di un veneto emigrato in Australia, un milione a chi è senza soldi. Tutti ovviamente lo reclamano. Il sindaco non riesce a decidere da 8 anni a chi devono andare questi soldi. Mannaggia, vabbè, c'è 1 milione di euro a disposizione per i poveri di Arte. E chi sono? Chi lo sa? Va bene, siamo al momento conclusivo, al momento della carta costa, l'articolo più inutile scovato, a mio insindacabile giudizio, dai giornali. Oggi il premio più ambito della rassegna stampa di Radio 24 va a Repubblica, con un articolo di un'intera pagina sotto la dicitura "il caso". Oh, c'era un caso, non ce ne siamo accorti. Elena Stancanelli, il caso dal calcio a Hollywood, vi siete accorti? La prevalenza è del barbuto. Il barbuto, quelli che hanno la barba. Il modello è barbuto. Vincent Cassel è barbuto. L'attaccante del Bologna è barbuto. Peter Mescapè, il nostro alpino, c'ha la barba, c'ha un po' di barba. E non me ne ero mai accorto, c'è un caso. Anche i modelli magri, i modelli che era prima, tutti barbuti. Non vi siete accorti? Guardate quelli con la barba oggi e cercate di capire che sono un caso, un caso. Ma la carta costa, Repubblica, su, giornale radio. Mattino. Eccoci qua, sono le 8:18 minuti in punto, cari ascoltatori, ben ritrovati da Alessandro Milan. Allora, succede che a Brescia, capoluogo lombardo, il piano regolatore della città sia stato bocciato dal TAR, ed è stato bocciato su ricorso di un'associazione islamica. Perché? Perché questo piano regolatore, che era stato approvato per la verità dalla giunta precedente all'attuale, non prevede spazi per costruire luoghi di culto per i non cattolici. Tradotto, questa associazione evidentemente vuole uno spazio per costruire una moschea. Secondo la decisione del TAR, l'Islam è una religione diffusa e radicata, e un ordinamento democratico come il nostro deve tener conto della pluralità delle rappresentanze sociali e religiose. Allora, chi ha salutato con favore la sentenza dice che la decisione avrà ripercussioni anche fuori da Brescia, anche perché altri piani regolatori sono scritti così, e mi risulta tra l'altro non sia neanche il primo caso. Credo che anche in altre città, come Sesto Calende, che è una città in provincia di Varese, sempre in Lombardia, il piano regolatore sia stato bocciato dai magistrati per lo stesso identico motivo. Allora, la domanda che ha rilanciato ovviamente il dibattito, per esempio Libero titolava qualche giorno fa, com'è, ce l'ho qua davanti, obbligo di moschea in tutte le città. Per la verità non solo le moschee, se si vuole anche gli altri ordinamenti religiosi, ma è chiaro che il dibattito soprattutto si in fiamma quando si parla di moschea. Allora, vi spaventa davvero la possibilità di avere una moschea in una delle vostre città? Cosa vi spaventa esattamente? E ne parliamo proprio nel giorno in cui dalla Germania, dalla rigorosa Germania, arriva questa notizia che viene anche diffusa dai giornali di oggi, e cioè nella regione, nello stato dell'Assia, è stata resa sistematica l'ora di religione islamica fin dalle scuole elementari. Questo proprio per contrastare i fondamentalismi, questo per migliorare la convivenza e l'integrazione dei cittadini di religione musulmana. Di questo parliamo oggi, lo facciamo con il segretario della Lega Nord, Matteo Salvini, che credo sia all'Europarlamento. Buongiorno Salvini e bentrovato. Buongiorno a voi e a chiunque ci ascolti, buon anno. Grazie anche a lei. Voglio salutare invece anche un imam, nonché vicepresidente del Coreis, una delle associazioni, delle comunità islamiche italiane, Sergio Yahya Pallavicini. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno e buon anno a tutti. Allora Salvini, voi della Lega avete già, come dire, bollato come assolutamente negativa questa decisione. Faccio questa domanda: cosa le spaventa di una eventuale moschea, ovviamente non i centri così un po' confusi, ma una moschea vera e propria come quella che c'è a Roma, per esempio nella sua città, Milano? Cosa la spaventerebbe di questo? Allora, io non ho paura di niente, di nessuno. La Lega non è mossa da paura. però non abbiamo, io appunto sono a Bruxelles e ci sono tantissimi casi di mancata integrazione. Il problema non è con le altre religioni, non abbiamo mai avuto alcun tipo di problema con nessuna altra religione, ad esempio a Milano ebrei, buddisti, valdesi, protestanti, ortodossi, Hare Krishna. Il problema non è il Dio in cui si crede, per carità di Dio, il problema è l'uso che alcuni dell'Islam e solo dell'Islam fanno per imporre un modo di vivere incompatibile con le nostre libertà e con i diritti conquistati dalle nostre parti. Non è un problema con le altre religioni, perché qua o si è cattolici o non si è nessuno, sono l'ultimo dei buoni cattolici. Il problema è con un certo uso che solo e soltanto dell'Islam qualcuno fa per imporre un modo di vivere incompatibile con le libertà e con i diritti acquisiti in decenni e decenni di battaglie. Nella mia Milano, guardi, in nome su questo di un Islam più o meno frainteso, ci sono centinaia di donne che vivono segregate in casa e a cui è impedito di imparare anche la lingua italiana. Guardi, su questo Salvini bisognerebbe avere le fette di salame sugli occhi per dire che effettivamente non ci sia un problema di fondamentalismo islamico, non so quanto radicato nel mondo e in Italia. Il collegamento che mi sfugge è sulla presenza di un'eventuale moschea. Perché lei associa le due cose? Nella stessa Segrate alle porte di Milano, stando ai giornali, lo stesso sermone, non so come si dica, tradotto in lingua e cultura e religione islamica, tenuto qualche giorno fa da parte di un presunto imam, è un'incitazione all'odio, alla violenza, al rancore, alla sopraffazione e all'occupazione. Che non mi augurerei mai che potesse essere fatto o tantomeno sentito da qualcuno. Non ci sono precise garanzie, ce la diciamo tutta. L'Islam di oggi, tranne qualche rara e meritoria eccezione, non presenta alcun tipo di garanzia che sia solo un modello culturale e religioso e non un modello per imporre un modo di vivere incompatibile con le nostre libertà. E quindi dove c'è un amministratore della Lega, questa incertezza la faremo valere fino all'ultimo. E quindi contro la costruzione di una moschea. Lei sa che però se uno è un fanatico islamico si può radunare anche in una casa, in un box, in uno scantinato, Ma già il fatto che non ci sia mai stato nella storia dei decenni in nessuna parte d'Italia un abuso da parte di fedeli ebrei, valdesi, protestanti che hanno occupato locali, che hanno minacciato, che hanno denunciato, e succeda solo con alcuni praticanti della religione islamica, ci dice che chiudere gli occhi sarebbe demenziale, ci dice che fino a che non sarà ben scisso il fattore religioso dal fattore della convivenza culturale e politica, io non cedo un centimetro del suolo del mio paese, un centimetro. Allora, io inviterei anche gli ascoltatori 800 24 00 24. Vi ricordo che dopo le 8:30 avremo anche il sindaco di Brescia, Emilio Del Bono, anche perché finora non si è capito se il comune di Brescia si appellerà al Consiglio di Stato. Questa è una decisione infatti in primo grado del TAR, che è una decisione, ecco, importante, voglio dire, dei magistrati che hanno accolto questo ricorso di un'associazione islamica e che hanno bocciato il piano regolatore di un'intera città. Allora, Sergio Yahya Pallavicini, come detto, è anche un consigliere del Ministero dell'Interno per il Comitato per l'Islam Italiano. Lei invece, credo in un'intervista ieri aver letto, plaude alla decisione del TAR. Perché non c'è il rischio di obbligo di moschea in tutte le città italiane? Ma no, credo che la decisione del TAR, tramite dei magistrati, fanno bene il loro lavoro di garantire il diritto alla libertà religiosa, a qualsiasi espressione, anche quelle minoranze che, come dice la sentenza, non sono cattoliche. Quindi cerca di tutelare un diritto sancito da una libera democrazia della libertà di culto per qualsiasi confessione religiosa. E quindi questo è il compito che i giudici devono fare, e mi sembra che in questo caso lo facciano bene, perché secondo noi anche il pluralismo religioso, come dice anche Salvini, ben gestito e articolato nell'armonia del contesto sociale e culturale italiano, è un patrimonio spirituale, culturale, religioso, che va tutelato senza, sì, però, nessuna, mi scusi, discriminazione. Però parla altro vicino è il discorso. Salvini dice una cosa, Salvini, mi scusi, dice una cosa diversa. Dice bene il patrimonio religioso, ma gli unici problemi di fatto si sono registrati con il fanatismo di tipo islamico, non di altre religioni, e soprattutto dice: io non mi fido di quello che viene predicato all'interno delle moschee in Italia. Ma Salvini credo che poi enfatizza e fa bene il suo lavoro di cercare di portare l'attenzione all'uso o all'abuso della religione o del nome di Dio o delle ritualità o dei luoghi di culto al di fuori della loro natura. L'importante, mi sembra, come abbia detto poc'anzi, è che non si voglia demonizzare le altre religioni o tantomeno anche soltanto una religione come quella dell'Islam, perché mi è piaciuto sentire che lui stesso abbia riconosciuto che tranne alcune eccezioni effettivamente ci sono comunque dei buoni e dei cattivi in tutte le comunità religiose, come tutte anche le altre dimensioni della società civile. E bisogna che da un lato i giudici cerchino di trovare le misure per arginare delle deviazioni o delle degenerazioni . E i politici altrettanto. Però lei è d'accordo, Pallavicini, quando si dice che effettivamente in una sinagoga o in una chiesa cattolica o in una chiesa dei valdesi o delle varie religioni, in un tempio buddista, non si sentono predicazioni di odio, mentre no, purtroppo perché, in alcuni casi c'è stato accertato di moschee in cui questo è successo. No, non sono d'accordo perché è una enfatizzazione di un aspetto che c'è, però io credo che i luoghi di culto, così come ci sono stati dei giusti musulmani che hanno difeso gli ebrei dalle persecuzioni naziste, o ci sono stati dei partigiani che sono stati ospitati nelle chiese da altri regimi in Europa e anche in Italia, esistono, al di là della carità e della solidarietà di un rispetto umano autentico, anche proprio dei teologi, degli uomini e delle donne di fede, di tutte le religioni, compreso l'Islam, in Occidente e in Oriente, quindi anche in Italia, che testimoniano invece l'autenticità di una dimensione di fede vissuta anche con la qualità della ragione e anche ma questo non c'è dubbio, cioè su questo non c'è dubbio, cioè non stavo dicendo che tutti coloro che vanno in moschea, lungi da me dal pensare questo, però è il discorso contrario, ci sono alcuni, pochi o tanti, anche uno di quella religione, contrariamente ad altre religioni, così diceva, non so, Salvini, questo era il concetto, che invece non si comportano in maniera... Purtroppo chiaro e evidente a tutti che l'unica religione del mondo in cui si uccide in giro per il mondo è quella islamica. Punto. Le violenze, le guerre, i massacri, gli stermini dei cristiani e dei cattolici nei paesi del mondo, e sono migliaia di morti taciuti dai giornali e televisioni, sono fatti nel nome di un Islam, più o meno frainteso, non lo so, ma io non cedo un solo millimetro di casa mia a una religione che non chiarisce con se stessa se vuole convivere o vuole sopraffare. Però Salvini, è una questione solo di, se vuole, di principio dal punto di vista della burocrazia, perché in realtà i musulmani ci sono già organizzati in associazioni, cioè tenerli in uno scantinato, visto che isolarli o non farli entrare in Italia non si può, sarà d'accordo anche lei che non farebbe questo tipo di scelta, no? In un mondo globalizzato. Quindi è solo una questione di dire non gli do la moschea per principio, ma ci sono già i musulmani in Italia. Perché è vissuto da una parte dei praticanti di questa religione, e ripeto, solo di questa religione, non ce l'abbiamo con il mondo che non la pensa come noi, ce l'abbiamo solo con alcuni, pochi o temo tanti, che usano questa religione per imporsi, e quindi io uso ogni mezzo necessario per non cedere, perché da molti di costoro, io mi sono confrontato anche pubblicamente con molti di costoro che sorridevano, chiudendo gli incontri dicendo bravi bravi con le vostre leggi, le vostre costituzioni, noi arriveremo a farci gli affari nostri a casa vostra. Non è visto come un dialogo, come un'apertura, come un confronto sereno, ma come un cedimento. Molli a Brescia? Mi faccio la mia bella moschea a Brescia, col muezzin, con le mie preghiere, con le mie prediche, non è che bello il confronto, siamo a pari, no, ho conquistato un pezzo di casa tua. E io un pezzo di casa mia a gente che non è disposta a confrontarsi, ma vuole solo occuparle. Io non glielo cedo e uso tutti i cavilli burocratici possibili e immaginabili per non cedere. C'è da dire che, insomma, vabbè, poi lo approfondiremo tra un attimo, dopo due minuti di pubblicità, anche sulla questione. Questa notizia viene in Italia quando, appunto, come detto, in Germania c'è la scuola elementare pubblica che in Assia, ma in alcuni stati c'è già, ma in Assia viene messo come studio sistematico l'ora di religione islamica. Allora vede che sono, se vuole, cose da avvicinare in maniera approcci radicalmente diversi. Comunque sentiamo un attimo la pubblicità, poi rientriamo. Ci sarà con noi anche il sindaco di Brescia, anche le vostre telefonate 800 24 00 24. Vi preoccupa questa possibilità di avere il diritto a spazi di culto anche per le altre religioni? In questo caso soprattutto si parla di moschea, non fosse altro perché è un'associazione islamica che ha fatto ricorso vincendolo in primo grado al TAR contro il piano regolatore di Brescia. 24 mattino. Siamo qui alle 8:35 minuti, ancora a parlare di questo diritto no alla moschea o comunque a luoghi di culto di tutte le religioni. Siamo con Matteo Salvini, segretario della Lega, con noi c'è anche Sergio Iacchia Pallavicini, che è vicepresidente della comunità religiosa islamica italiana, un imam in Italia. E voglio salutare anche il sindaco di Brescia, Emilio Del Bono. Sindaco, buongiorno del Partito buongiorno Democratico, buongiorno, buongiorno e benvenuto. Mi faccia dare spazio a due ascoltatori che erano in attesa e magari rilanciano il tema. Vorrei sentire Tiziana da Milano. Buongiorno Tiziana. Buongiorno. Io vorrei chiedere al vicepresidente della comunità islamica in Italia, sì, una cosa semplicissima. Non ho niente in contrario al fatto che si concedano spazi per, sì, per le moschee, eccetera, però mi sembra assolutamente irrinunciabile il diritto della reciprocità, cioè trovo che sia incredibile che si accampi il diritto di poter professare la propria religione nei nostri paesi senza che ci sia un impegno formale, con una richiesta ufficiale presso i paesi di provenienza delle persone che vivono e lavorano in Italia, sì, affinché rendano possibile anche nei loro paesi per i cristiani, cattolici, certo, o comunque certo, cristiani in generale, di professare la loro religione. Ma interessante Tiziana, guardi, le risponderà tra un attimo. No, ma chiaro, guardi, ci sono paesi, ci sono paesi in cui è assolutamente vietato, anche un reato, indossare solo il crocifisso e si viene perseguiti per questo. Le risponderà tra un attimo. Prima vorrei dare ancora a Hassan da Verona. Hassan, buongiorno. Sì, buongiorno. Mi scusi, grazie per avermi richiamato. Vorrei parlare proprio del discorso della reciprocità. Più del 99% degli immigrati in Italia, di quelli musulmani, non appartengono all'Arabia Saudita o al Qatar o al Bahrain o dove ci sono quelle leggi lì che voi continuate ad attaccare. Sono tutti che provengono da paesi dove esistono, se non dico una o due o tre chiese in tutte le città metropolitane, parliamo del Marocco, dell'Algeria, della Tunisia. Questi cittadini, oltre alle tasse che pagano giustamente come gli italiani, non so quanti anni ha oggi Matteo Salvini che continua ad attaccare questi immigrati musulmani, penso che hanno reso più cumulo di tassi di tanti nuovi italiani. Quindi quello lì è un diritto sacrosanto per ogni musulmano, avere un culto, anche per il discorso della sicurezza. Perché no, continuiamo ad attaccare i musulmani sui scantinati, sui garage, e lì avere una chiesa dove ci sono anche relazioni con tutti gli organi. Sì, quello che dicevo io, cioè meglio avere un luogo dove si sa che vanno lì, dove ci sono le norme di sicurezza, norme igieniche, tutto perfetto, una moschea piuttosto che scantinati. Però prima della domanda a cui deve rispondere di Tiziana Sergio Iacchia Pallavicini, vorrei coinvolgere il sindaco. Allora, sindaco Del Bono, intanto io, come ho detto in apertura, il piano regolatore era della giunta precedente, diciamo un piano regolatore, mi sembra di capire, che voi avete ereditato. Intanto la reazione alla bocciatura, è una bocciatura del TAR. La domanda che si pongono tutti è: ricorrerete al Consiglio di Stato? Ma mi pare che intanto pochissimi abbiano letto la sentenza, cioè tutti hanno discusso di una cosa che è del tutto teorica. La sentenza interviene su un punto solo, diciamo due, uno di natura urbanistica che poco interessa agli ascoltatori, cioè che una delle moschee esistenti in città è inserita impropriamente dal PGT in un nucleo di antica formazione, cioè in un borgo antico della città, senza, in maniera impropria, e quindi è un tema che riguarda questa moschea, ma in realtà anche moltissimi cittadini, singoli residenti che potranno chiedere, anzi che hanno fatto ricorso e che ragionevolmente lo vinceranno dopo questa sentenza del TAR, e questo è un problema urbanistico. Poi ce n'è un altro molto banale, cioè dice la sentenza del TAR che nel piano dei servizi, che è un pezzo del piano di governo del territorio, cioè che fotografa i servizi di una città, non sono indicati come servizi religiosi luoghi culto, in particolare delle moschee, che esistono in città ma non sono indicati come luoghi di culto. Sì. E questa è la questione sollevata, non l'obbligo di prevedere una moschea però in città, che è una stupidaggine, ho letto queste cose, ma la sentenza non affida agli amministratori locali la valutazione se in base alle proprie norme urbanistiche, in base alle norme di igieniche, in base alle norme ovviamente di ordine pubblico e sicurezza, di mobilità, di traffico, è opportuno o no riconoscere un servizio religioso. Il problema è che il piano dei servizi attualmente a Brescia non fotografa l'esistente, cioè che esistono delle moschee ma non sono classificate. Quindi lei mi sta dicendo che se voi sanaste questa cosa nel piano regolatore dicendo ci sono effettivamente delle moschee, degli spazi, questo sanerebbe anche il vizio che ha portato alla bocciatura? In realtà il TAR non dice dovete pianificare le moschee del futuro, assolutamente, dice le esistenti, cioè i servizi religiosi esistenti, e fa questo riferimento sulla base di una legge regionale della regione Lombardia, la legge 12 del 2005, ovviamente una legge votata dal centrodestra, dalla Lega eccetera, a meno che non la cambino, quindi non è un problema evidentemente nostro, che dice esattamente che laddove esistono luoghi dove si prega di culto eccetera, anche organizzati da associazioni, sì, debbono essere riconosciuti come servizi religiosi. Certo. Allora il problema è chiaro: o noi neghiamo l'esistenza di servizi religiosi che esistono, oppure al contrario li riconosciamo. Cioè lei mi sta dicendo che col precedente piano regolatore si voleva addirittura cancellare l'esistenza. No, cioè a Brescia esistono delle moschee, certo, dove tutti sanno che si va a pregare, ma non sono riconosciute nel piano di governo del territorio. Ora, la questione quindi è, vogliamo affrontare con una certa serietà questa questione? Perché io sono contro i luoghi di culto nei garage, nei negozi, i luoghi approssimativi, cioè mentre sono assolutamente favorevole a una libertà di culto che permetta il rispetto di tutte le disposizioni. Mm. Perché altrimenti, che cosa è accaduto a Brescia? Esistono due luoghi di culto sostanzialmente oggi riconosciuti come tali e che non infastidiscono sostanzialmente la città, che sono via Volta e via Corsica. Poi ce ne sono altri due che invece sono nati negli scantinati, uno di un condominio e in un altro di un negozio, che invece creano problemi. Quindi lei dice sarebbe meglio avere, come diceva l'ultimo ascoltatore, un luogo invece riconosciuto e riconoscibile, magari unico. Ma non solo, anche dal punto di vista delle considerazioni che faceva Salvini, cioè di un controllo dell'istigazione alla violenza, perché laddove esistono dei fondamentalismi, questi sono problemi di ordine pubblico e di sicurezza, sì, su cui il questore e il prefetto debbono intervenire e far chiudere quei luoghi qualora ci fosse un'incitazione alla violenza, diversamente da quei luoghi dove serenamente si svolge un'attività di natura religiosa, di qualunque religione si parli, perché la legge regionale del 2005 la dovrebbe dire. Giustamente che tutte le religioni non fa differenza. Allora, su questo punto, prima della replica di Salvini, vorrei, era rimasta indietro una domanda. Imam Pallavicini vuole rispondere all'ascoltatrice, che è un punto che tutti e molti italiani si chiedono. Va bene, facciamo una moschea, ma ci sono alcuni stati islamici dove vai a fare una chiesa cattolica o a portare il crocifisso e vedi che succede. Pallavicini. Sì, ma noi, guardi, io posso soltanto ripetere l'ottimo risultato che abbiamo conseguito prima con il ministro dell'interno Amato e poi con il ministro dell'interno Maroni, quando abbiamo noi come Coreis, come comunità religiosa islamica italiana, favorito un modello virtuoso di buone pratiche, che tra l'altro sarebbe il primo forse in Europa, dove i gestori e i predicatori dei luoghi di culto di natura islamica in Italia prendono comunque le distanze e non accettano di collaborare con ministri di culto di paesi dove la libertà religiosa non è garantita. Questo è qualche, è una questione un po'... un modello virtuoso di gestione di predicazione. Sì, però è una questione appunto diversa sulla predicazione. Però il punto che dice l'ascoltatrice dice: io perché devo cedere a fare una far fare una moschea laddove in Arabia Saudita o in Afghanistan non posso neanche. La questione della reciprocità, come diceva anche l'altro ascoltatore, va affrontata in modo preciso, nel senso che noi non possiamo giustamente pretendere che prima vengano regolarizzate le cattive gestioni politiche di alcune nazioni che interpretano al loro modo la religione. Noi dobbiamo garantire, conformemente allo Stato italiano e alle sue leggi, una libertà di pratica religiosa anche per i musulmani. L'unica cosa che possiamo aggiungere è creare le condizioni perché la gestione del culto islamico sia fatta in modo trasparente, preciso, come anche diceva lei, affinché almeno si crei un modello rassicurante, ben gestito, come le sinagoghe e le chiese in Italia, anche per le moschee, e dove chi invece vuole strumentalizzare la religione o applicare delle interpretazioni come in altri paesi esclusive o integraliste venga sia invece l'oggetto di un altro ricorso che possa essere fare in modo di tranquillizzare anche Salvini dopo il traffico replicherà il sindaco Emilio Del Bono sulla questione Brescia tra un attimo. Allora, Matteo Salvini ha sentito, oltre alle precisazioni sulla sentenza importante, il sindaco ci ha detto in pratica che in quel piano regolatore non era di fatto riconosciuta neppure la situazione già esistente a Brescia, però poi dice il sindaco Del Bono, meglio una situazione, come dire, chiara, la questione della moschea. Perché lei insiste invece, Salvini, a dire non cederò neanche un centimetro del territorio laddove c'è una giunta leghista? È una posizione un po' intransigente, no? Beh, guardi, se io vedo un rischio è mio dovere essere intransigente, non balbettare. Se in giro per il mondo, ma ripeto, non a Brescia, ma rischia Lega, più in uno scantinato, Salvini, cioè no, si, guardi, si rischia mettiamo, più in un... Sì, ma dobbiamo spiegare a questa gente che se io ritengo di avere a che fare con qualcuno che è pericoloso, non sto a trattare per renderlo un pochino meno pericoloso. Prima questo soggetto matura e abbandona qualsiasi proposito di violenza, di barbarie, di sopraffazione, di occupazione, di illegalità. Poi mi metto a ragionare. No, in questo caso il male minore è pericolosissimo. Ma chi dovrebbe farlo? Ripeto, perché purtroppo l'Islam è una religione con mille sfaccettature. Cioè, chi dovrebbe farlo a livello mondiale, abbandonare? Non so, chi dovrebbe. Ma innanzitutto sottoscriva delle carte dei diritti. Innanzitutto si impegni a livello generale, non solo a livello italiano, a riconoscere i diritti delle donne, la parità di genere, perché ci sono le femministe italiane pronte a strapparsi i capelli ogni quarto d'ora, ma poi quando sono lesi nel nome di un Dio frainteso, oppure inteso in maniera secondo me folle, sono negati i diritti a migliaia di donne, tacciono e scompaiono. Io ritengo, avendo letto, avendo studiato, avendo viaggiato, essendomi confrontato, ma con praticanti di tutte le religioni del mondo, che nel nome dell'Islam ci sia un tentativo di occupazione in corso, occupazione che non riuscì per via militare in passato e che può riuscire oggi. Quindi fino a che non ci sarà da parte di tutti gli esponenti di questa religione, ripeto, non si uccide nel nome del buddismo, dell'ebraismo, del cattolicesimo, purtroppo nel nome dell'Islam si uccide. E allora o mi sottoscrivono tutti, da tutte le parti del mondo, non solo a Brescia, il fatto che il rispetto dei diritti dell'uomo è sacrosanto e non c'è Dio che tenga, e non c'è Dio che tenga che mi permette di torcere un capello a qualcuno, oppure il dibattito moschea del sindaco di Brescia sul piano regolatore, via qui, via là, è una sconfitta. No, ma è chiaro, è una sconfitta per lei. Noi qui stiamo parlando della questione delle moschee. Ha sentito, sindaco Del Bono, cioè la posizione di Salvini e la posizione della Lega, insomma, abbastanza intransigente. Cioè l'idea è... Sì, ma è la posizione di chi fa finta di non vedere le cose che esistono. Cioè, onestamente, Salvini dovrebbe anche spiegare, visto che le moschee esistono, perché o noi verifichiamo un'istigazione incitano alla violenza, e quindi il questore, il prefetto, lo Stato deve intervenire e deve inevitabilmente chiuderle. O altrimenti... Ma figurati, viene fuori la guerra. No, se mi permetti, Servini, io ti ascolto sempre con grande attenzione, perché non ho un pregiudizio di nessun tipo. Cioè, io credo che qualunque sindaco di qualunque città, comprese quelle che governate voi, deve disciplinare questa materia, perché altrimenti facciamo i danni dei nostri concittadini. I nostri concittadini si trovano delle situazioni precarie nelle quali si sono costruiti luoghi di preghiera impropriamente e sulle quali invece bisogna intervenire in maniera molto severa, e dall'altra disciplinare in maniera ordinata laddove esiste una libertà di culto, perché la libertà di culto è prevista dalla nostra Costituzione, dalle nostre leggi e anche dalle leggi regionali della Lombardia dal punto di vista urbanistico, quindi bisogna capire come ci muoviamo in maniera molto pragmatica, qui non è un problema tanto ideologico. Dopodiché sono molto convinto di quello che è stato detto sull'opportunità che a livello nazionale, nel confronto a livello nazionale, si stipulino degli principi, delle carte, dei diritti che vengono ovviamente riconosciuti in maniera intransigente da tutti. Sì. Cioè, i principi fondamentali della Costituzione italiana debbono essere rispettati da tutti, a prescindere dal proprio orientamento. E questo senza religioso. Dubbio. Sindaco, io però non ho capito ancora una cosa, alla luce delle precisazioni che lei ha fatto, sì, se farete ricorso o no. Il ricorso è certamente perso, perché il TAR ha impostato, non in modo perentorio, ma sostanzialmente ha detto all'amministrazione: guarda, cara amministrazione, che tu sulla scorta della legge regionale devi fotografare l'esistente. Io non potrei mai negare l'esistenza, perché tutto ciò che è accaduto si è stratificato nel corso di 7, 8, 10 anni, perché sì, queste realtà esistono ormai da moltissimi anni, e sono sotto gli occhi di tutti. Cioè, tutti sanno che esiste la moschea di Via Volta, tutti sanno che... Sì, non scriverlo nel piano regolatore, evidentemente, è un chiaro errore. Quindi non farete ricorso. È una finzione. Certo, non farete ricorso perché sarebbe perso. Quindi. Ma no, è perso di sicuro questo ricorso. Quindi il problema è prenderlo in mano all'interno del piano di governo del territorio. Noi adesso andremo a fare una variante che riguarda semmai il consumo di suolo e una riduzione dei volumi che erano previsti dalla precedente e modificarlo. Dentro questo bisognerà essere molto seri e fotografare l'esistente. Io non intendo aumentare il numero dei luoghi di culto nella nostra città, visto che non ce n'è una necessità, ma intendo disciplinare, regolamentare e verificare se ne esistono, e se esistono rispettino le disposizioni urbanistiche, di igiene, eccetera. Questo sì, comunque è un tema che riaffronteremo. Io ho ancora due minuti, però devo approfittare della presenza di Matteo Salvini, perché Salvini all'interno della Lega, lei che ne è segretario, è nato un dibattito anche di diverso tipo dopo le dichiarazioni dell'assessore regionale Gianni Fava, un dibattito che oggi continua sui giornali sulla questione la legalizzazione. Lei ha già detto, e la Lega fa questa battaglia, se c'è una cosa che si vuole legalizzare è la prostituzione, però non è che una cosa esclude l'altra, voglio dire, si possono fare entrambe le battaglie. Il sesso non fa male, anzi la droga fa male, punto. Ecco, quindi la sua posizione personale, mi dica la sua posizione personale e da segretario della Lega. La mia posizione personale e politica è che l'ultima delle priorità sentita dai cittadini in questo momento è la battaglia per legalizzare le droghe leggere. Adesso va bene tutto, a me chiedono lavoro, chiedono di cancellare la riforma Fornero, sono incazzati per gli aumenti dei pedaggi autostradali e su questo manifesteremo sabato. Non ce n'è uno che mi ferma per strada dicendo: mi raccomando che la Lega si impegni per legalizzare droghe leggere, togliere la prostituzione dalle strade, riconoscere quello che è un lavoro, controllarlo, regolamentarlo e tassarlo, sì. E su questo promuoveremo un referendum, e ne sono profondamente convinto, sia personalmente che politicamente. Le droghe sono droghe, punto. Quindi non mi interessa se nel Colorado le vendono ai ragazzini, ho un figlio di 10 anni, mi rifiuto di pensare che nel nome di un malinteso progresso fra qualche anno possa andare a comprarsi lo spinello dal tabaccaio. Quindi è l'ultima delle battaglie che la Lega farà, anzi non farà mai una battaglia simile, lo posso assicurare. Nessuna battaglia. E quindi l'assessore Fava che fa? È una posizione personale? Ha una posizione personale, ma per carità di Dio, il bello della Lega è che ci sono provenienze culturali e sociali diverse, religiose, c'è cioè chi viene da destra, da sinistra, cattolici, laici, atei. Quindi quella dell'assessore Fava è una posizione personale, rispettabile, non sarà mai una battaglia della Lega, su questo posso assicurare leghisti e non leghisti, le battaglie del 2014 saranno per il lavoro. Ecco, non so se coltivare la canna aumenterebbe di tanto i posti di lavoro, però non è esattamente l'aumento dei posti di lavoro su cui impegneremo la Lega Nord. Va bene, va bene, però su questo devo dire anche altri, credo anche l'onorevole Pini, cioè, ci sono posizioni diverse, però lei dice posizioni personali. Come Lega, come partito non ci sarà nessun impegno in tal senso. Mi sembra stato chiaro. Allora io vi ringrazio tutti, il sindaco di Brescia Emilio Del Bono del Partito Democratico, ringrazio Matteo Salvini, segretario della Lega, e Sergio Iacchia Pallavicini, imam e vicepresidente del Coreis. È un tema che riaffronteremo, come sempre torniamo sulle questioni. Mi spiace anche per Giuseppe da Catania. No, Giuseppe da Catania forse ce la fa, se è brevissimo, però è sempre sul tema moschee. Sì, sia breve, sia breve, grazie. Io volevo dire che a Catania ci sono diverse moschee. Sì. E io da cattolico frequento, sì, per conoscere il culto di questi popoli immigrati, ci sono dal Bangladesh, dal Pakistan e dai paesi del Mediterraneo naturalmente, e ho fatto diverse amicizie con queste persone. Sono persone che vogliono integrarsi in Italia, gente per bene. Vabbè. Che lavora, che si sacrifica, che cerca lavoro come lo cerchiamo noi altri. Vabbè, e forse non lo trova. Questo è Giuseppe, è la sua esperienza, insomma, da Catania è un'esperienza positiva nel confronto con gli altri. Scusi, non è che la sfumo, ma è che il tempo è scaduto. Ringrazio Miriam Lucchetti, Elisabetta Fuscone, Alessandro Marco Tulli in redazione e il nostro Peter Bescapella Alpino. Domani ci troviamo alle 6.30 con 24 Mattino. State con noi.